tutti, grazie di essere numerosi alla nostra iniziativa. Sono le ultime che organizziamo qui al Centro Trevi prima della pausa estiva e ci ritroveremo lunedì prossimo per presentare il romanzo Doveva essere per sempre di Irene Cocco con Bruna Maria Dall'Ago Veneri, Carmen Esposito e Maria Piazzanetti che leggeranno alcuni brani e poi concluderemo giovedì prossimo con la presentazione di Politica 2015. Questa sera invece siamo qui in compagnia di Giancarlo Riccio, giornalista del Corriere dell'Alto Adige, che ha costruito questa serata e lo ringrazio tantissimo per la sapienza, la pazienza e le idee che ci ha regalato. E una serata che vede partecipare con noi due persone molto note come Giorgio Mezzadira, che è uno storico e che molto spesso ci ha accompagnato in conferenze, presentazioni, dibattiti presso la biblioteca, e Arno Tribus, direttore della Neue Südtiroler Tageszeitung. Il titolo, appunto, l'avete visto anche dagli inviti, dalle cartoline che ricevete, ha come oggetto appunto due libri, o parte, prende spunto da due libri dello stesso autore, Sebastiano Vassalli, con un tempo, uno spazio temporale che può essere considerato lungo, breve, a seconda, di 30 anni, e precisamente l'uscita di Sangue e Suolo nel 1985, un libro che fece epoca, scalpore, insomma, smosse qualcosa nel nostro territorio. E poi Il confine, che è un po' una chiusura per certi versi, ma un'apertura verso nuove prospettive o comunque dei sogni che non svelo, ma che dichiara l'autore alla fine del proprio libro. Mi fa particolarmente piacere avere a questo tavolo gli ospiti che vi ho appena presentato, a cui cederò subito la parola. Vi ricordo che la biblioteca è attiva con queste iniziative proprio per stimolare la conoscenza, la voglia di leggere, di frequentare una struttura che è pubblica e aperta a tutti. Siamo in via Mendola 5 e questa sera abbiamo portato alcuni libri che in qualche modo sono legati a questo tema, non solo quelli oggetto di questa conferenza, ma proprio anche altri temi e argomenti o personaggi che si intrecciano in queste storie e sono indissolubilmente legati con la storia di questa terra. Se volete dare un'occhiata, alcuni sono lì e poi gli altri sono nella biblioteca di via Mendola 5. Vi ringrazio e cedo la parola a Giancarlo Riccio. Sì. Grazie a Valeria Trevisan che ha lavorato con Arno e Giorgio e me con la sapienza e l'esperienza che sappiamo. Non c'è nessuna galanteria, io anzi passo per uno che la galanteria non la conosce granché, e devo riconoscere che senza il contributo della dottoressa Trevisan questo incontro con due grossi calibri e infine chi mi sta parlando non sarebbe andato in porto. Allora, io a proposito dei colleghi che sono con me a questo tavolo, un po' di anni fa, forse qualcuno ce lo ricorda, è uscito un film dedicato a Apollo 13 che ricostruiva le vicende di quella navicella che ha avuto dei problemi, la navicella americana, equipaggio esclusivamente statunitense, ebbe dei problemi non raggiunse la Luna, ha avuto dei problemi, sono tornati comunque indietro i tre cosmonauti americani, e nel film a un certo punto il comandante dice ai suoi compagni di viaggio, agli altri due astronauti, signori, è stato un privilegio volare con voi. Lo dico, pur non essendo assolutamente il comandante, anzi l'ultimo dell'equipaggio, perché sono anch'io convinto che sia un privilegio condurre e esporre delle cose che riguardano questi due tipi di Vassalli con Valeria, con Arne e con Giorgio, ma anche perché questo riferimento ci permette di fare brevemente un ragionamento sul fatto che Sebastiano Vassalli nel giro di 30 anni abbia scritto due libri abbastanza discussi, soprattutto il primo. primo, Bluton Boden, di un po' di più di 30 anni fa, che raccoglie scritti di circa due anni, dei due anni precedenti ancora, quindi 83-85, pur non essendo un residente e un conoscitore dall'interno di questa terra. Vassalli lo sapeva, e per cercare di spiegare nel suo primo libro, in un'edizione successiva però all'85, quando Sangue e Suolo per Einaudi era uscito, scriveva: il mio punto di vista era quello del Candido di Voltaire, che va senza pregiudizi alla scoperta del mondo, e se poi ho scontentato i rappresentanti di tutti i partiti politici italiani e tedeschi di lassù, ciò è successo perché gli occhi di Candido avevano finito per riflettere una situazione inquietante e un po' mostruosa. In questo Sangue e Suolo, che come tutti voi ricorderete ha provocato discussioni molto aspre e polemiche anche molto accese, Vassalli mette un po' le mani avanti e dice: io ci sono venuto per fare un'inchiesta giornalistica in Alto Adige, non sono venuto per fare il Pierino dirigente, per fare il sapientino di turno. E questo credo che sia un segnale che io personalmente ho raccolto con molta attenzione, e credo che potremo poi parlarne noi quattro, e naturalmente con il contributo preziosissimo di voi nella cosiddetta platea, perché come è capitato in più di un'occasione da parte per esempio di un mio amico e collega molto caro che si chiama Tony Visentini, noi rischiamo di essere vittime della sindrome dell'ombelico del mondo, cioè pensare che l'Alto Adige Südtirol, con le sue cose buone e le sue cose meno buone, sia una specie di Shangri-La che amiamo, di cui tendiamo a sopportare o a considerare le contraddizioni, ma se arriva un corpo estraneo, aiuto, aiuto. Vassalli ha fatto un'operazione molto incisiva col suo primo libro, è stato molto criticato. Alexander Langer, non serve che io vi dica chi fosse Alex, definì Sangue e Suolo il manuale degli italiani incazzati, e altri hanno osservato che era una specie di una sorta di Weltanschauung di destra o di estrema destra verso lo scenario di allora dell'Alto Adige. Vassalli ricevette in quel caso un incarico che tutti noi giornalisti vorremmo ricevere. Il direttore del Panorama Mese di allora gli disse: vai lì, vai in Alto Adige e racconta quello che vedi. Mai successo a quasi nessun giornalista, che invece è costretto a routine ben diverse. Lo ha raccontato in modo polemico, lo ha raccontato in modo aperte virgolette dall'esterno, certo, ma noi abbiamo bisogno, credo, che ogni tanto delle persone che non vivono qui ci raccontino questa terra, e ci raccontino perché funziona e perché non funziona. Passano 30 anni e Francesco Cevasco, sul Corriere della Sera di un po' di giorni fa, Francesco Cevasco è un collega del Corriere che fino a qualche tempo fa era il responsabile delle pagine culturali del Corriere, recensisce Il Confine, il nuovo libro di Vassalli, che sta peraltro attraversando in questo momento un periodo sta facendo un viaggio abbastanza complicato e delicato, e speriamo di poterlo avere, Valeria, presto ospite alla prossima occasione, se ci sarà. Questo nuovo libro smussa una serie di contrasti e di polemiche sulla visione dello stesso Vassalli sull'Alto Adige. Ne parleremo adesso con Arnold Tribus e con Giorgio Mezzalira. E ritengo che lo faccia dal punto di vista soprattutto dell'inchiesta, anche del memoir e anche strettamente letterario. Ricordo che Vassalli è stato indicato proprio in queste settimane dagli ambienti accademici di Göteborg come candidato al Nobel per la letteratura 2015. Non è detto che questa candidatura vada in porto, naturalmente. Peraltro ho scoperto di recente che nessun libro di Vassalli è stato tradotto in svedese, ma come dire, in Svezia parlano le lingue, un po' come noi, sono solo un pochino più brutti, noi siamo decisamente più simpatici e più amabili. Che cosa è successo in questi 30 anni e passa? Da quando Vassalli, per conto del supplemento mensile, che ha avuto peraltro vita breve, di un settimanale, il panorama di allora era abbastanza diverso da quello di oggi, non dirò se in peggio o in meglio, fate voi. Ebbene, che cosa è cambiato da quel lungo viaggio di Vassalli raccontato in Sangue e Suolo, titolo, come sapete, che evoca cose non belle storicamente, a questo nuovo libro che è uscito di recente? Vassalli ha ammorbidito un po' di posizioni e tra l'altro dice alcune cose, ve ne leggo solo una e poi cedo la parola credo a Giorgio, e poi insomma ci metteremo d'accordo. E dice, a proposito dell'autonomia, parola neanche Mago Merlino forse riuscirebbe a spiegarcela in pochi minuti, io ci rinuncio in un minuto e mezzo. Dice a un certo punto Vassalli, prefigurando lo scenario che lui nel frattempo ha interpretato nel nuovo libro. Questo nuovo scenario, secondo Sebastiano Vassalli, è uno scenario in cui gli italiani restano e diventano un po' tirolesi. I sudtirolesi non diventano un po' italiani perché, sto per scrivere una cosa terribile, avverte Vassalli nel libro, lo sono già. Poco e senza rendersene conto, ma lo sono. Anche senza tirare in ballo molti dei loro cognomi, c'è qualcosa nella loro cultura che li rende diversi da altri popoli di lingua e di cultura tedesca. 30 anni in cui sono accadute molte cose e secondo Giorgio Mezzalira che cosa soprattutto lega ma anche separa i due libri di Vassalli di cui stiamo parlando? Innanzitutto grazie per l'invito. Che cosa lega e che cosa separa? Beh, io credo che il legame più forte forse sta nelle motivazioni di Vassalli. È una persona che quando si muove intende cercare una sua verità. Anche in questo secondo libro, ad esempio, dice: noi ci muoviamo nella narrazione di questa storia secondo i fatti e lo spirito di verità, che è condivisibile. Lui di fatto cerca di scavare, cerca di trovare le ragioni, anche a distanza di 30 anni, quindi capire che cosa è cambiato in un certo senso, non tanto fare ammenda di quello che ha scritto 30 anni fa, ma gettare uno sguardo diverso, sicuramente su questa realtà locale. Che cosa separa i due libri? Probabilmente una visione forse un po' più chiara della situazione, forse meno affannata, oserei dire, perché ho l'impressione che Sebastiano Vassalli nel suo primo libro si sia un po' avvitato a un certo punto nel ragionamento, nell'andare a cercare per spirito di verità, no? Le cose che non funzionavano, e quindi cercare di fare una fotografia il più possibile aderente al vero, quantomeno quello che lui aveva sott'occhio. C'è un'altra cosa che lega questi due libri, e va detto, perché qui sono in veste di storico, mi preme sottolinearlo, e non lo dico con intento polemico, ma forse Sebastiano Vassalli un pizzico più di documentazione per quanto riguarda la ricostruzione degli avvenimenti storici, insomma, avrebbe potuto metterla. Tanto più che proprio di storia che intende parlare quando affronta il suo nuovo viaggio sul confine. E possiamo dire che lui, da buon letterato, appassionato delle storie delle persone, storie individuali, si muove con questo personaggio che diventa un po' il suo, come dire, Virgilio, che è l'odio. L'odio, la follia, la paura, che secondo questa sua interpretazione sono poi i motori della storia. Ora, sicuramente le passioni umane hanno importanza nella storia, ma credo anche che le passioni umane portino spesso a confondere il piano della visione della realtà. Faccio un esempio tratto dal suo romanzo. A un certo punto, parlando di Magnago, dice: Magnago era un bravo capopopolo, sostanzialmente, che riusciva a capire bene dove si trattava di trainare, di portare, traghettare la barca. Aveva però un'ossessione, e questa ossessione, che continuava a ribadire, era quella: noi siamo una piccola minoranza su tirolese in un mare di italiani. Qui io sottolineo la parola ossessione, perché ossessione sta benissimo con la passione, con l'odio, sta benissimo con la paura, sta bene con la follia, cioè sono le passioni. Però se io non riesco a fare uno scarto e a capire che Magnago dicesse queste parole e le usasse come una importantissima e potente arma politica, non capisco il contesto. Faccio fatica a capire il contesto, faccio fatica a capire perché Magnago usava questo termine. Questo per dire che molto spesso il piano della narrazione della storia, così come l'altro piano della narrazione, che è quello della politica, se usiamo come chiave interpretativa le passioni umane, rischiamo a volte di essere parziali nella nostra osservazione. E questo mi pare sia un po', forse, diciamo, il rischio, ma anche la ricchezza nella narrazione di Vassalli. Dice a un certo punto, visto che abbiamo parlato di italiani, no? del sangue suolo, che Alex definiva come appunto il breviario dell'italiano incazzato. A un certo punto Vassalli dice una cosa vera: gli italiani non conoscono l'Alto Adige. Potremmo allargare lo spettro dicendo che anche la classe politica di governo non conosce l'Alto Adige, a giudicare dalle ultime uscite. Ma diciamo anche però che gli italiani oggi sono un po' più vicini a quello che sono i sudtirolesi, cioè gli italiani dell'Alto Adige. Perché? Perché anche gli italiani oggi stanno scoprendo che cos'è l'identità, stanno scoprendo che cos'è il senso di appartenenza, grazie al fatto che viviamo in una situazione che di solito si definisce di emergenza, quindi il confronto con le altre culture, i migranti. Oggi gli migranti fanno scoprire agli italiani che cos'è l'italianità, che cos'è il senso di appartenenza, come si difende la propria italianità. Quindi in un certo senso gli italiani conoscono poco l'Alto Adige, ma forse inconsapevolmente si stanno avvicinando a ciò che in Alto Adige abbiamo già vissuto e che abbiamo conosciuto con le sue chine pericolose, con il suo declino pericoloso. Mi sembrava portare anche un contributo eventualmente alla discussione che forse dopo faremo. Ecco, tornando un po' sul piano che mi compete un po' di più, che è il piano della storia, potremmo fare una serie di annotazioni ad alcuni passaggi del romanzo di Vassalli dove, diciamo, non combinano la ricostruzione dei fatti che Vassalli offre. Però con questo non è che falsifica un ragionamento, per carità. Lo dico semplicemente perché il libro di Vassalli ha bisogno di un lettore avveduto, che sappia che davanti non ha un libro di storia, ma il libro, un viaggio, una narrazione, che entra anche nel merito di alcune questioni importanti, che offre una sua visione critica da discutere e a cui prestare sicuramente tutta l'attenzione che merita, ma ripeto, non va collocato se si scegliere un posto nella mia libreria, non lo metterei tra i libri di storia, ma lo metterei, diciamo, non saprei nemmeno dove collocarlo bene, ecco, tra la letteratura, tra il reportage giornalistico, il saggio di storia, è un po' tutto questo, ripeto, però con un desiderio, e questo sì è un desiderio autentico, in un certo senso di ripercorrere, di ritornare a guardare dentro all'Alto Adige 30 anni dopo, scoprendo che, diciamo, la situazione è cambiata e che l'odio, guarda caso, è sintomatico, dopo che, insomma, l'odio è il motore della storia, diventa il motore non solo della storia locale per 30 anni, ma anche della storia europea, continua in un certo senso ad esserlo, secondo Vassalli. C'è un bellissimo passaggio dove lui racconta, e stiamo parlando del momento in cui parla della chiusura della vertenza altoatesina, che mette in diretto confronto un fatto di cronaca. Il fatto che succede nel 1996, un tale Gamper a Merano uccide delle persone sulle passeggiate. Viene braccato dalla polizia, si rifugia nel suo paese, fa fuori altre due persone e lo trovano ucciso, perché poi si uccide, lo trovano vicino al suo cadavere un piccolo biglietto in cui inneggia al grande Sudtirolo e alla grande Germania. Come a dire, l'odio ormai è declinato qui, è quasi costretto ad un fatto di cronaca che si chiude, guarda caso, con la chiusura della vertenza altoatesina, più o meno. Lui dice: non vivremo più l'odio, non vivremo più la paura, non vivremo più la follia qui. Io metterei un punto di domanda e non un punto esclamativo. E qui magari mi fermo. Sì, grazie. Fa bene, Giorgio, a richiamare Vassalli, e speriamo di farlo presto, avendolo qui nostro ospite, ha un vigore maggiore. L'altro giorno scorrevo proprio di Giorgio Mezzalia, il 25 aprile, un suo editoriale sul Corriere dell'Alto Adige, nel quale risponde alla domanda: fu un'Italia la resistenza in Alto Adige? Quindi bisogna un po' studiare un po' di più. Però, insomma, c'è anche il punto di vista, dei tedeschi, non è questa la domanda ad Arnold Tribus, che potrà intervenire adesso su qualunque cosa. Però c'è una cosa che mi ha colpito. Voi sapete che fra alcuni giorni ricorderemo i 20 anni della morte di Alexander Langer. E vuole caso che le persone che avete di fronte, e credo anche molti di voi, lo abbiano conosciuto e gli abbiano voluto bene e lo abbiano stimato, Savas Sandir. In uno dei suoi scritti Langer dice, ci ricorda: io vengo da una famiglia di madre lingua tedesca, sono cresciuto in un paese a stragrande maggioranza tedesco che si chiama Sterzing, in italiano Vipiteno, che qualcuno di voi conosce per ragioni turistiche. Attenzione, negli anni della mia infanzia per me era scontato che in paese non esistesse la scuola media in lingua tedesca. La scuola media, la Mittelschule, no, il corso post-universitario. Ne esisteva una in lingua italiana, il che significava che chi come me voleva poi frequentare anche la scuola superiore in lingua tedesca doveva per forza andare a scuola in città, Bolzano, ovviamente. Ciò pur essendo il nostro paese per circa tre quarti popolato da persone di lingua tedesca. Insomma, è tutto molto complicato, anche se ci sono ovviamente delle cose che hanno funzionato nella storia e nella aggregazione sociale di questi anni, come del resto ha sottolineato anche Giorgio Mezzalina. Hanno più funzionato le cose o hanno meno funzionato in questi 30 anni che separano i due libri? Ma io devo dire che subito che il libro Secondo il confine mi è molto piaciuto. Non è un libro di storia, questo è chiaro, ma è un raccontare molto leggero, ed è, mi sembrava così, una persona vecchia e mite che dà per i suoi nipoti, leggete questo e capirete di più dell'Alto Adige. Su Tirolo, sempre lui dice, e questo devo dire che è cambiato da così a così, perché io quando è uscito Sangue Solo stavo con Langer in consiglio provinciale e Langer diceva che era il libro degli incazzati italiani, però lo stesso Langer era incazzatissimo, no? Perché in fondo era un libro che distruggeva ciò che era il pensiero langeriano, l'idea langeriana di un Sud Tirolo pacificato, transetnico, interetnico, perché era riuscito a, diciamo, a fomentare l'odio etnico, e Sangue Solo era, insomma, la Bibbia della destra incazzata, fascista o non. Di quelli, insomma, che, ecco, lì nasce, diciamo, il disagio. Con Sangue Suolo nasce quello che poi diventa per tanti, tanti anni il disagio degli italiani. E soprattutto perché, secondo Langer, anche me allora, si diceva che non era assolutamente riuscito ad individuare anche quel pezzo di società che in luce c'era, che era né fanatica italiana né fanatica tedesca, ma stava con grande fatica costruendo quello che poi si chiamò l'Alto Sud Tirolo. E lui naturalmente ha fatto l'italiano nel modo anche più banale e più sporco, perché ha dato retta a tutti quelli che, insomma, da un lamento all'altro, è un insieme di lamenti che naturalmente hanno dipinto questo popolo sofferente contro gli arroganti tirolesi, un po' nazisti naturalmente sempre, perché si sa, e questo, diciamo, ha allora fatto molto male. È un libro allora, Sangue Suolo, che allora ha distrutto molte speranze di cambiamento, ma ha ricompattato posizioni molto di odio. Lui che poi parla sempre di odio, cioè dopo Sangue Suolo gli italiani legittimamente di più potevano odiare i tedeschi, perché avete visto, lo dice anche Vasalli, lo dice anche lui che viene da fuori, per cui naturalmente il movimento sociale allora era felice, lo credevano le firme contro la proporzionale, contro il pacchetto, contro tutto, il treno a Roma per fermare, diciamo, la fine degli italiani, no? Ecco, questo era il clima allora, che poi naturalmente l'MSI ebbe a Bolzano, so, il 20%, una roba così. Bolzano, città, la città pioniera d'Europa, si diceva allora, la stampa tedesca veniva, dire, oh Dio, che succede, ritorno al fascismo, una roba. Ecco, questo è tutto anche collegato, non sembra, a un libro, però era così. E questo credo che va ricordato, perché è stato un modo di affrontare la storia sudtirolese in un modo proprio non storico, ma di banalità e di pettegolezzo, di sentito dire, eccetera. Oggi, 30 anni dopo, il Sangue Suolo è completamente dimenticato. e anzi, anche se non è storico, però diciamo lui stesso adesso racconta agli italiani e sfata tutti i miti che per gli italiani erano sacralità, distrugge il monumento alla vittoria, che era l'unico elemento unificante degli italiani di Bolzano, destra e sinistra, perché non va mai dimenticato che il referendum è stato perso, il referendum Sargenti, Piazza della Pace, pur avendo la sinistra allora una maggioranza, è stato perso clamorosamente perché tanti anche compagni, tra virgolette, gente di sinistra, hanno detto questo è troppo, questo è troppo, ci vuole togliere la vittoria, ma siamo impazziti. E ecco, questo era un po'... e così è tutto, un pagina dopo pagina, distrugge tutta la mitologia italiana. No? Dice, pensate che facevano credere gli italiani che qui era Italia perché c'era Druso, cioè va avanti pezzo dopo pezzo, dice ma cosa viene raccontato quando lui dice gli italiani sono poco e hanno capito poco del Sud Tirolo. E però tutte queste ai miei tempi erano verità sacre, no? Il fascismo, quando io stavo in consiglio, c'era ancora Pierino Mitolo, una persona di grande cultura e eleganza, che litigava con Magnago, compagni di classe, loro due di banco addirittura, diceva, che cosa dici? Il fascismo, tu stavi bene o no? C'era, tu stavi lo stesso gruppo sportivo, c'era ancora questo mito del fascismo, ma per lunghissimo tempo, che in parte c'è ancora oggi. Quando, lo so, Donato Seppi era uno dell'ultimo, diciamo, esponenti di questa... Ecco, questi qui erano tutti miti ai quali gli italiani fermamente credevano. E siccome, per tornare, per passare una cosa solo alla qualità, perché sono rimasto un po' esterefatto e scosso quando ho fatto tre conti per scrivere un articolo su Bonazza, il nuovo consigliere comunale di Casa Pound, ho fatto i conti e ho visto che la destra a Bolzano è di nuovo il primo partito, si è sommato, sommato tutti, Frattaglie, questi tutti piccoli, 0, 1, 2, però sono più del 30%. E la sinistra, sempre lei, messa assieme con i Verdi, anche dietro, sono il 28%. Per cui dico, leggendo il confine, ho pensato, ma che meraviglia, come adesso è cambiato l'Alto Adige, perché insomma il primo libro era la Bibbia del popolo incazzato, dico questo adesso è, potrebbe diventare la Bibbia degli altoatesini sudtirolesi pacificati, che si capiscono, ognuno porta rispetto e un certo orgoglio per quello che è, no? Tutti, cioè, con questo libro, pensate, ecco, adesso nasce, come diceva Giorgio, ecco l'italiano sudtirolese, no? Che si rende conto di vivere in una bella terra, dove ha certi privilegi, dove si sta bene, che, ecco, questo io ho visto nel suo libro. Lui si rende conto che in fondo che lui è sbagliato, difende praticamente tutte le scelte Volkspartei per quanto riguarda l'autonomia, cioè la proporzionale, che allora era una cosa tremendissima, l'ho fatto il treno a Roma perché non ci fanno morire, non abbiamo più i posti, raccolgo 30.000 firme, eccetera, eccetera. Oggi Vasari dice, cosa sacrosanta, bellissima, intelligente, era quella che ha in fondo tolto l'ingiustizia a Bolzano. Posizione che tra l'altro anche nel frattempo poi sosteneva anche Giorgio Volkswagen, di quella parte, diciamo, di Alleanza Nazionale più moderata o più intelligente o più che ne so io. Ma dico, e queste diciamo, c'è questo salto che adesso finalmente dico, abbiamo una nuova generazione che è diventata autonomista. Perché gli italiani altoatesini si sono sempre classificati come anti-autonomisti e la DC, poi fallita miseramente, del scelto di voti, chi ha contrattato l'autonomia, il Bellotto è l'amico numero uno, no? Sbeffeggiato, calabrache, insomma, no? Traditore degli italiani. E perché nessuno allora era riuscito a coinvolgere il gruppo linguistico, il popolo italiano, diciamo, in una idea autonomista, perché ognuno parlava al suo privilegio. I linguisti dicevano: adesso tocca a noi, no? E gli altri invece dicevano: ecco, adesso ci tolgono tutto. E si attaccava uno Stato inesistente che mai si è sognato a intervenire, e ha poi dato fiducia a partiti della destra, destra estrema, inutilmente, perché anche loro non avevano nessun potere, nessuna parte per poter cambiare qualcosa. Per cui dico io, diciamo, questo libro lo leggo con molto piacere, anche se è di storia, perché se è di storia forse è anche troppo noioso, no? Però è questo un romanzino, no? Anche però devo dire che nel frattempo tante cose sono cambiate, ma tante. Già il fatto che c'è un libro di storia, no? Al quale ha collaborato, credo, anche il qui presente professore, che viene distribuito uguale per le scuole tedesche, per le scuole italiane, è una rivoluzione. È una rivoluzione, perché allora, ai miei tempi, l'arcoalice neanche si studiava nelle scuole italiane, non esisteva, si faceva finta di essere gloriosi italiani, no? È meglio, e l'altra parte era un po' così. Adesso c'è questo libro bellissimo, chi non va a scuola se lo può leggere, perché è la vera rivoluzione culturale alla quale abbiamo aspettato tanti tanti anni, ora c'è. Si è poco parlato, però l'importante è che i nostri ragazzi crescano in questo spirito. E in questo spirito io leggo anche il libro di Vasari, perché parte delle note storiche le ha scoperte dal manuale della provincia, che è un po' poco, almeno dico, io ho pensato che poteva almeno prendere questo libro di storia, però neanche non sa forse che c'è, poteva avere una fonte un po' più, diciamo, qualificata che non un libercolo che viene dato ai turisti o Bignami. Sì, poi ci sono poi tante cose, quel censimento, tanti argomenti, no? Il censimento che quando io stavo giovane, per cui sono anche citato in questo libro di Vasari. Nel primo, sì. Sì, per noi era allora una cosa, diciamo, sì, di apartheid. E questo è anche un termine che lui usa. Gli italiani che erano diventati vittime di un'apartheid che è voluta dalla Volkspartei e per cui erano, insomma, emarginati, e insomma erano un po' come i neri, si diceva allora, ancora si poteva dire, no? Noi bianchi, neri in Sudafrica. Questo era l'idea. Oggi invece, no? Il censimento non ne parla più nessuno, anche perché là talmente è diventata una cosa che si fa una volta nella vita, no? Ci sono tanti gli aggiustamenti man mano facendo strada, si può fare sempre, comunque, ovunque, per cui dico, e questo, se mi ricordo, allora era una delle cose che l'Italia intera guardava da noi, perché c'era censimento, era non era nazista, e anche questo che si capisce, e poi devo dire che Vasari poi anche dice, Lange, dice, grande persona, però dice, contava niente. E lì aveva ragione, visto oggi, che era una piccola forza che si ha, voi dico, dicevo anch'io, che mi ricordavo di me stesso, che noi che sopravvalutavamo al massimo, pensavamo di essere più della Volkspartei, no? Perché avevamo questa idea brillante e nuova. Però, tante cose del piccolo poi, piano piano davanti, sono diventate realtà. Cioè, la forza politica è sempre la stessa, già il fatto questo la dice lunga, cioè è sempre stato un gruppo politico con due o tre consiglieri, no? Sempre lì, non è mai diventato, diciamo, la forza di popolo, ecco. Però ha seminato, no? E oggi nessuno osa più, diciamo, sostenere tesi in pubblico di separazione netta, di nessuno, salvo se adesso prima questi nuovi fascisti, non lo so, io sono preoccupato, forse tu no. No, oddio, certamente anche io. Grazie. Prego. Partiamo di nuovo da qui. Va bene. Allora, ho ascoltato con attenzione e interesse i vostri interventi e devo dire che alcune cose che mi hanno colpito è sicuramente la considerazione la constatazione che gli italiani del Sud Tirolo, dell'Alto Adige, sono cambiati in questo periodo. Mi sembra di poter affermare anche da bibliotecario, da persona che opera all'interno di un mondo fatto di libri, di testimonianze, di documenti, che la popolazione ha preso anche una consapevolezza di sé, non si vede più come un italiano originario di un posto, ma come italiano che è nato qua, ha una storia che gli appartiene e che spesso vuole anche raccontare. Abbiamo avuto un'esperienza, la stiamo portando avanti con la memorialistica, con le video interviste, con anche delle pubblicazioni curate dalla biblioteca, e c'è un atteggiamento meno pubblico e più così anche sereno nel raccontare le proprie origini e quella che è stata l'inizio di un'avventura in questo territorio da parte di molte persone in anni ormai anche lontani, insomma, da noi. Questa è una considerazione che così mi nasce spontanea, un'altra, vado così a random in base a quello che mi è arrivato. Sicuramente è stato un bel traguardo quello di pubblicare un libro comune, una storia condivisa che possa essere andare di pari passo per entrambi gli studenti, forse un primo collegamento, un ponte, come auspicava anche Alexander Langer con la rivista, un titolo scelto non a caso in quei tempi di Brücke. E quello che mi domando sempre però è quanto, e è una domanda che rivolgo a voi come professionisti del settore, quanto la storia, quanto il giornalismo possano contribuire, orientare, favorire, sopire tutta una serie anche di emozioni da parte delle persone. E Vassalli era un giornalista, ecco, è un giornalista, insomma. Beh, sì. Beh, studiando e scrivendo di più, lo dico, penso, davanti agli occhiatacci di anni di lasciaci un po' in pace, adesso andiamo qualche giorno in vacanza, no, studiando e scrivendo di più per rispondere all'acuto stimolo di Valeria Trevisan. Le due date che sono state evocate a questo tavolo sono per quanto riguarda il centenario che arriverà fra paio d'anni, il 4 novembre 2018 e il 10 settembre 2019. In queste due date segneranno il primo centenario, da un lato, della fine della prima guerra mondiale, la cosiddetta grande guerra, che come sapete ha avuto qui non solo storicamente ma anche culturalmente delle pieghe particolari. L'altra data è quella della firma del trattato di Saint-Germain, e Vassalli nel nuovo libro auspica che entrambe queste date vengano segnate dalla presidenza con pace. Non so se è una questione di simpatia personale, come legislatura più o meno ci dovremmo essere. A Vassalli faremo avere il libro di Giorgio Mezzalire e di altri autori che con molta opportunità hanno il tribus, oltre a dirci delle cose sagge come sempre, ci ha consigliato. A me veniva però da dire anche un'altra cosa, e cioè in questa sala viaggiamo un po' tutti, no? Magari low cost come chi vi parla, però viaggiamo un po' tutti. E mi ha colpito negli ultimissimi mesi, sono andato a un paio di convegni specialistici di giornalisti, di storici del giornalismo. Avevano finito quelli bravi, hanno ottinto la seconda scelta e quindi hanno chiamato anche me. A pranzo e a cena, questi colleghi di alcune università come quella di Urbino, ma non soltanto, e colleghi di altri giornali, mi dicevano: ah, il Ciampinoi, ah, ma tu lo strudel lo fai con la pasta sfoglia? Oh. Ragazzi, io sono venuto a parlare di altre cose, cioè del terrorismo culturale di frontiera essenzialmente, argomento abbastanza interessante, devo dire. Ma voi davvero conoscete l'Alto Adige-Südtirol per la pista nera o rossa della Val Gardena o per la cucina della Val Badia? Josef Zoderer è un campione di slittino o è uno scrittore? Alcune firme importanti di alcuni quotidiani nazionali hanno sorriso, hanno capito la modesta battuta di spirito, però hanno capito soprattutto che cosa volessi dire. E cioè questo, cari amici, cari amiche e cari amici. Se la lettura dell'Alto Adige-Südtirol, e parliamo soltanto del nuovo libro di Vassalli, quello che è in libreria da qualche giorno e che troverete di sicuro nella biblioteca Carlo Augusta, dove la direttrice e il suo staff bravissimi vi potranno consigliare anche altre cose, un piccolo spot che tu Valeria mi permetterai. Ebbene, se la lettura dell'Alto Adige-Südtirol avviene attraverso alcuni stereotipi dei giornali, luoghi comuni, cose un po' tirate via, e grazie o per colpa del libro di Vassalli, ma tutto il resto non decolla dall'Alto Adige, sempre anche dal Trentino, eccetera. Quando, a cena con dei colleghi, qualche settimana fa ho fatto di Euregio, ma io preferisco il l'Emmental, no, Euregio sarebbe una regione, poi abbiamo giocato, ci conosciamo da tanti anni, andavamo in giro sempre con lo stesso pulmino, un vecchio Paolo Bebus, si trovavamo in gita scolastica, ci siamo divertiti, però io ho provato anche, e non sono dormito la prima notte, disagio e anche una forte malinconia. Perché adesso come adesso molte cose dell'Alto Adige-Südtirol, noi fuori dai confini provinciali e regionali, soprattutto verso sud, verso il resto d'Italia, ma non soltanto, noi queste notizie, questi cambiamenti e anche queste cose che non cambiano, le conosciamo attraverso il libro di Vassalli e quasi basta. C'è un florilegio di libri, non soltanto quello antologico di Giorgia Mezzadiga ed altri, ci sono alcuni che si cimentano in libri di storia locale e per fortuna si occupano soltanto di Strudel, perché non oso pensare se si inoltrassero in territori come dire, più complessi. Però pensiamo che moltissima gente che viene qua in vacanza o che viene per dei periodi anche di lavoro eccetera conosce questa terra così complessa e così straordinariamente bella nella sua complessità anche nelle cose che non funzionano attraverso pochissime pubblicazioni che si ritrovano nelle librerie, non dico di Palermo, di Lecce o di Roma. Roma tra l'altro ha una bellissima libreria in lingua tedesca e quindi magari si possono ritrovare dei romanzi di alcuni autori nostri, ma insomma la percezione che si ha di questa terra è ci vengo in vacanza. Quindi studiare e scrivere di più e possibilmente meglio, a partire autocriticamente ovviamente da me stesso, è la mia piccola risposta a uno degli interrogativi che Valeria ci ha posto qualche minuto fa. Anche Arnold Ribus si augura che il centenario della fine della prima guerra e la firma di Saint-Germain saranno segnate da una presidenza di compaccio, come spera Vassalli? Per me stia finché vuole, è senz'altro stato diciamo un cambiamento opportuno, adesso quindi dove deve governare la fase migliore, no? Chi c'era prima di lui ha dovuto con tanta fatica, perché non è che l'autonomia cade dal cielo, e questo punto si dimentica spesso, perché sembra che sia una cosa che cade dal cielo. Invece no, è stata una cosa, diciamo, combattuta con grande forza. Cioè, non è che lo Stato fosse lì a dire: beh, vi do tutto. Adesso abbiamo Renzi che è amichetto di Compagno, dice: beh, cosa vuoi ancora, però sembra che questo rapporto che sia un po' più. Però sono cose che anche se non ci fossero, l'autonomia sarebbe forte lo stesso, ma i capisaldi dell'autonomia li hanno conquistati persone poco simpatiche, allora Alfonso Benedict, no, sono questi che hanno fatto l'autonomia. E oggi naturalmente ci sono altre cose importanti. Però la cosa giusta che tu hai detto prima di Vasari, che mi dice: adesso l'odio pare finito, e un po' hai ragione tu, Giorgio, ma dici: è finito anche perché ci sono altri invasori, perché contro gli invasori siamo tutti uniti, tedeschi e italiani. Questo unisce. Cioè, quando io ero bambino, quando la signorina sposava il carabiniere del paese, padre era disperato: oddio, l'italiano! Adesso dicono: per carità, qua se non mi porto un extracomunitario, l'italiano ormai va benissimo, no? E fa parte del, siamo noi. Questo è nato, questo nuovo il noi, perché sono gli altri. Fino a c'erano gli altri, eravamo noi e loro. E questo però c'è ancora, io non voglio questo fare così naif, dico: è superato tutto, siamo tutti, perché c'è ancora e molto. Io penso così: se ci fosse di nuovo una crisi economica, anche in Alto Adige, tutte queste cose che salterebbero fuori di nuovo. Cioè, noi siamo anche, diciamo, andati bene in questi anni, perché c'erano sufficienti danari per soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti. Cioè, la ricchezza è stata distribuita a destra e a manca, si sono fatte case per tutti, insomma c'è di tutto per tutti. Quando, naturalmente, se dovesse venire a mancare, anche poi perché la questione sociale, stranamente in Alberto, non si è mai posta, no? Non c'era mai il periodo del comunismo, mica per niente, diciamo, i partiti di sinistra della parte tedesca non sono praticamente mai esistiti, dei barlumi di social democrazia, ma non c'era mai, diciamo, una forte, una coscienza di classe, come si diceva allora, perché era tutto etnico. Era tutto etnico, cioè non si era di destra e di sinistra, si era tedeschi e italiani. No. E questo ha, diciamo, formato, plasmato questa terra in un modo tutto particolare, che è difficile veramente capire da chi viene da fuori, fargli capire, no? Come dico storicamente, quando dopo la guerra qui erano nazisti, e come? Ma nazisti, ma proprio nazisti. Dopo la guerra erano tutti antifascisti. Perché i nemici erano i fascisti, cioè non erano nazisti, no, non erano nazisti perché c'erano i fascisti, per cui avevamo nazisti antifascisti. Cioè, capisci? Come vai a spiegarlo a qualcuno che viene da fuori questa cosa strana? Adesso però, probabilmente, ho perso il filo, dove hai chiesto tu? Io ho chiesto se... Sì, la cosa nuova, spero che Vasari abbia ragione, questo l'odio è superato perché i tedeschi sono diventati più italiani e gli italiani più tedeschi. E questo è vero, questa è una nuova cosa che noto anch'io. Cioè, mentre anni or sono, quando eravamo giovani, da parte italiana c'era un sommo disprezzo verso quello che era tradizione tedesca, il modo di vestire, di come guarda, di quei montanari, ma per carità, il cibo, tutto era. C'era ancora l'idea che nel momento della vittoria abbiamo portato noi la cultura, la saggezza, no? Che era interiorizzata. Adesso noto, nel mondo italiano, una grande, come tu dicevi, cibo. Vanno più loro dei masi tirolesi a mangiare gli italiani che i tedeschi. Cioè si stanno piano piano appropriando di questa terra, e questo è bene, cioè si sentono a casa. Beh, mentre quando io insegnavo alla scuola Leonardo da Vinci, lì dietro, c'erano bambini che erano mai stati sul Renon, mai a Vermitello, stavano solo nel loro quartiere, non uscivano mai, no? Era un enclave. E questo era, insomma, la cosa folle del primo libro di Vasalli, che lui voleva l'enclave, diceva, diamoli a loro tutto il resto, le montagne, noi stiamo invece al Bolzano, noi giù stiamo noi. Lì, l'acqua viva. Sì, quella era l'acqua viva, cose folli, no? Queste erano queste idee, diciamo, di enclave. Adesso mi sembra che gli italiani si siano appropriati di questa terra, vanno comunque, sono più in montagna loro che noi, se uno va in montagna trova centinaia, e questa è una nuova cultura, un nuovo modo di vivere questa terra, e questo mi dà fiducia. Grazie Anna, vorrei chiedere a questo punto a Giorgio qualcosa di questo libro che ha evocato e che giusto. Facciamo conto e speriamo di averlo presto per un incontro vis-à-vis sul serio. Fai conto di avere Vasalli di fronte, che cosa gli racconteresti da storico, da analista, da scienziato della storia di questo, di questa antologia trilingue. Diciamo che innanzitutto il volume è, scusa, non trilingue ma bilingue, in italiano. In tedesco però viene usato anche nelle scuole latine, potrebbe essere scuola, sì. Ma io non gli racconterei niente, gli direi semplicemente che magari, perché è il discorso che ho fatto anche un po' prima, che quando si entra nel terreno della storia si tratta di entrare con estrema attenzione, soprattutto poi se, come il libro di Vasalli è strumento, come diceva Arno, per far capire che cos'è l'attuale al resto d'Italia. Cioè, questo libro si trova nelle librerie, è uno scrittore famoso, quindi è importante che anche, diciamo, un po' sì, io ad esempio c'è un passaggio, sono alcuni passaggi che con cui per i quali mi sentirei effettivamente discutere con lui. Uno fra tanti parla ad esempio di Andreotti come un padre dell'autonomia. Certo che è un padre dell'autonomia, ci sono tanti padri buoni, padri cattivi, padri affettuosi, padri autoritari. Mi sarebbe piaciuto ad esempio che Vasalli citasse tra i padri dell'autonomia Moro, ad esempio, perché quello è stato il cardine che ha fatto girare la questione del pacchetto, il centro-sinistra Moro, che citasse Bernoffa, ad esempio. Poi gli vorrei anche dire che sulla questione della monumentalistica, che lui fa parte di uno dei suoi due sogni, no? Anzi, due sogni che parlano di storia, perché una è la monumentalistica del ventennio e l'altro sono le fandonie storiche, cioè dice dobbiamo evitare di distribuire le fandonie storiche. Importantissimo, assolutamente importante. Sulla monumentalistica fascista, fortunatamente siamo arrivati prima noi del suo desiderio, nel senso che lui diciamo, a me piacerebbe che lì su ci fosse un museo che raccogliesse tutti i relitti, non usa il termine relitti, no? Ma tutti i resti del fascismo. Noi abbiamo fatto di meglio secondo me, non abbiamo portato via dai luoghi in cui queste sopravvivenze sono quei due pezzi di storia, perché il luogo è il contesto. Il monumento è rimasto lì dov'è, il bassorilievo sarà lì dov'è. Perché è importante? È importante per ricostruire anche i cosiddetti luoghi della memoria. C'è un bellissimo passaggio in un libro di uno storico dell'architettura che si chiama Nicoloso, parlando della monumentalistica del ventennio, dice: sono monumenti fatti per durare nel tempo. Sono monumenti identitari. E la storia d'Italia, l'appartenenza, avviene anche attraverso i luoghi della memoria. Che cosa cambia però da quando sono stati costruiti a oggi? cambia che abbiamo perso un po' il vaglio critico su quelle costruzioni. La storia serve a questo, a far capire perché sono stati costruiti, spiegare perché sono lì, far capire che valore avevano, e bisogna farlo senza reticenza. E il monumento alla vittoria si è fatto un lavoro importantissimo. Peccato che Vassalli, io adesso non so quando lui ha descritto materialmente il suo libro, però insomma il monumento alla vittoria è stato inaugurato nel 2014, il progetto partiva nel 2011. Quindi ecco, su questa cosa è importante. Vassalli dice una cosa giusta, dice anche cosa che trovo anch'io molto importante, dice che insomma tutta la simbologia dovrebbe naturalmente, tra virgolette, essere tolta nel momento in cui cade un regime. Questo dovrebbe essere, perché poi questi resti acquistano significati completamente diversi. Leggevo giusto qualche giorno fa una vecchia intervista a proposito del Monumento alla Vittoria, in cui un italiano di Bolzano diceva: ma io il Monumento alla Vittoria mi ricordo perché facevo la guardia come alpino al monumento. Cioè non si ricordava il monumento fascista, ma era un ricordo che legava a quel monumento. Se noi parliamo con le persone più anziane, il ventennio diventano i bei tempi andati. Allora la storia serve un po' a quello, cioè costruire quella griglia, quella gabbia critica che ti permette forse di leggere in maniera diversa, di non passare superficialmente sopra le cose. E poi Vassalli dice un'altra cosa importante, che noi dobbiamo raccogliere un po' come imperativo etico sicuramente, ma che insomma su cui dobbiamo discutere. Lui parla di memoria condivisa. Certo, sarebbe bello, ma sappiamo che la memoria non può essere condivisa. Anzi, è assolutamente salutare vivere con le memorie diverse. E sarebbe una memoria condivisa, e questo è un passaggio di uno storico importante come Pavone sulla Resistenza, che dice: come si fa a condividere quel pezzo di storia d'Italia in cui c'è la memoria del repubblichino e la memoria del partigiano? Non può essere condivisa quella memoria. Deve rimanere distinta. Altra cosa invece però è che la memoria non deve essere impermeabile alla conciliazione. E noi abbiamo un altro esempio importante a Bolzano, che è il muro del lago, che è stato per anni e decenni un luogo dell'oblio, che è diventato un luogo istituzionale in cui la rappresentanza di lingua italiana, tedesca e ladina si incontrano per svolgere lì un rito civile, democratico, che è un ricordo. Quello è quando parliamo di queste questioni, abbiamo forse bisogno. Ecco, questa è una cosa che direi con molta insomma, serenità anche a Vassalli: abbiamo bisogno di essere forse un po' più documentati. Grazie, io credo che adesso possiamo, se Giorgio e saluto Valeria, che è la padrona di casa, sono d'accordo, aprire un. Non so che la parola eviterà molte cose al primo, oltre che il mio amico Nanni Moretti, ma il dibattito con tanti più. Credo di sì, staremo a vedere per quanto riguarda con pace. Tra l'altro, voi lo sapete tutti, Omero diceva: il futuro è sulle ginocchia di Zeus, ma vediamo se anche le ginocchia di Compace e di qualcun altro ci daranno qualche segnale. Solo per dire, ho già visto una mano alzata di un amico autorevole che a corredo di quello che stiamo dicendo c'è il medio dibattito sulla cosiddetta provincia difficile e anche se non è argomento stretto di questo incontro continua sulla rivista Il Cristallo un dibattito molto acceso e molto importante su questo, e mi permetto di segnalarlo da lettore. Il professor Serafini voleva intervenire? Sì. L'ho riconosciuto? Non so. Prego, Tato. Grazie. No, io purtroppo ho un'altra memoria di Tribus del 1985. Facevo sindacalista e direi che Vassalli non ha fatto altro che registrare l'umore che c'era in giro. Ricordiamo che il pacchetto è del 72, i primi DPR sono del 76, quelli più importanti sono del 78. All'inizio degli anni 80 si faceva vedere i primi effetti della proporzionale sia sull'occupazione, ma ricordiamoci meglio soprattutto sulla casa. Sulla casa le assegnazioni nei primi anni 80 si facevano unicamente con la proporzionale pura e veniva fuori che ai cittadini italiani ci volevano 28-30 punti, a quelli di lingua tedesca ci volevano 12 punti. Da lì la sollevazione anche sindacale che facemmo con Benedetta, e nell'87 modificarono la norma di legge e si fece il bisogno. Cioè ricordiamoci, cioè io non do colpa a Vassalli, a me il libro non è piaciuto moltissimo, come diceva Giorgio prima, il contesto storico l'ha sballato completamente, ma lui ha raccolto l'incazzatura degli italiani che portarono l'MSI nell'85 a essere il primo partito a Bolzano con 13 consiglieri. Ma perché recepiva l'incazzatura degli italiani su questo tema, e su questo avevano ragione, non a votare a destra, ma avevano ragione a incazzarsi, perché stiamo parlando di una provincia in cui i tedeschi erano, vivevano qua, la proprietà edilizia era attorno all'80%, fra gli italiani la proprietà edilizia era attorno al 30%. Ed è chiaro che il bisogno degli italiani era oggettivamente maggiore. Se non parliamo dei ladini, che erano semplicemente una cosa che venivano giù dalla Val Gardena e venivano a abitare a Bolzano perché così lavoravano in provincia. Cioè ricordiamoci l'inserimento, e lui non ha fatto altro che registrare l'incazzatura. Poi poteva farlo in maniera un po' più dando una prospettiva, no? Però questo era il clima dell'85, questo dobbiamo ricordarcelo, perché se no, se non contestualizziamo il libro, poi lui, io non l'ho letto il secondo, ma il primo l'ho letto benissimo, mi ricordo, ne parlavo, allora ero nel PSI con Nolet, ne parlavo moltissimo, ma secondo me è stato utile paradossalmente. Guardando col senno di poi è stato utile, perché convincere Benedetta che quella norma lì sulla proporzionale secca era una follia, che era contro la giustizia e l'equità, ci sono voluti 2 anni per modificarlo, forse tu te lo ricordi perché eri ancora in consiglio provinciale, ma voglio dire l'85 fu il boom dell'MSI, non l'83 alle provinciali, ma l'85, il che vuol dire che da lì nasce poi tutto un percorso sul quale penso che anche la riflessione di Vassalli, la società è cambiata, oggi hanno spostato ad esempio il blocco del bisogno sugli extracomunitari, perché noi siamo proprietari in media al 73% degli alloggi, gli extracomunitari saranno al 10% meno, al 2% meno, ed è chiaro che averli bloccato il sussidio casa in una percentuale crea grossi problemi. Perché non li vediamo così grossi? Perché non sanno organizzarsi, perché non riusciamo a organizzarli, ma il problema c'è, non è che non c'è il problema, e penso che tra un po', se va avanti così, anche scoppierà. Grazie. Qualche altra domanda? Intervento? No, mi permetto allora di chiedervi una cosa, se posso. Questa cosa che a sud di Rovereto si lega solo Vassalli, o quasi, sul tema attuale del sito, vi inquieta? O tutto sommato può essere una... Io devo commentare, io per me sono sì. Sì, ma chi entra da Feltrinelli o in un'altra libreria di altre catene a sud di Rovereto trova solo Vassalli. Questa cosa inquieta e... No, chi... Prego. Senza che vengo lì, forse mi sentite. Io credo che sia una scelta del lettore, nel senso che sull'Alto Adige, nel corso degli ultimi anni, anche un po' per il nostro lavoro, ma in generale, si è sviluppata una letteratura in lingua italiana, scritta da italiani, non solo riferita a questa provincia, ma anche con un mercato appunto legato non solo al turismo e all'enogastronomia, ma anche all'approfondimento della storia e cultura locale. La casa editrice Giunti ha pubblicato tantissimo di riflessione colta sul nostro territorio. È la scelta del consumatore che va sul libro di Vassalli, che anche in questo caso, almeno secondo il mio modestissimo avviso, è un libro assolutamente superficiale, e concordo in pieno con quello che dice il professor Mezzadina, è un libro che non cita le fonti, perché forse sono impresentabili, insomma, sono i libretti della provincia distribuiti dall'ufficio stampa, insomma, cioè, a uno studente io non avrei consentito di fare una tesi di laurea così. Poi la penna è meravigliosa, Vassallo è un grande scrittore, e quindi sì, secondo me la scelta del consumatore si orienta sulla bella penna e poi i contenuti sono quelli sono. Ma non mancano libri sulla tua arte nelle librerie. Diciamo che forse rientra nella tendenza attuale di raccontare, di fare un reportage in maniera incisiva, veloce, rapida di una situazione o di personaggi. Ecco, l'ho trovato abbastanza in linea con quelle che sono le tendenze più diffuse, anche non, so, non solo nel mondo editoriale, ma anche dal punto di vista televisivo, no? Questi reportage molto impressionanti che suscitano subito un certo fastidio, un certo scalpore, oppure e fanno scatenare insomma una curiosità immediata. Sì, onestamente non so se Massimo Vassalli abbia inteso diciamo di nuovo entrare nel vivo della questione con quell'impatto fortissimo che ha avuto il primo libro. Sono in parte d'accordo con Arno quando diceva che è un rapporto di frutto maturo, uso questo termine forse in parte della vecchiaia, no? E mi sembra anche che qualche volta si voglia togliere anche qualche piccolo sassolino dalla scarpa, quando ad esempio dice: ma in fin dei conti tutte le polemiche che sono state intorno al mio libro, in fin dei conti sono solo le riflessioni di uno che scrive, di uno che scrive romanzi. E poi nella pagina prima però dice: però il mio libro Sangue Solo mica l'hanno citato quando c'è stato il dibattito parlamentare nella seconda metà degli anni 80 sull'Alto Adige. Come dire, era lì, potevate guardarlo, leggerlo, citarmi, potevate farlo. Però ecco, al di là di questa che è una nota di colore, insomma, ho l'impressione appunto che ci sia quasi una sorta di prendere commiato, per così dire, da un Alto Adige, da uno sguardo sull'Alto Adige che probabilmente in questi 30 anni gli ha continuato, a insistere nella sua testa. Forse anche, io penso, perché alcune delle obiezioni che sono state fatte a Sangue Suolo lo hanno colpito. E probabilmente lo hanno colpito profondamente, tanto che ha avuto, insomma, 30 anni ha avuto la possibilità di tornarci e di dare uno sguardo diverso, è una rilettura critica, più posata, assolutamente attenta, con quello spirito di identità che lo muove, di cui si diceva all'inizio, e anche con dei grandi buoni propositi alla fine, no? Un libro che rilascia ottimismo rispetto, cioè che spinge l'ottimismo rispetto alla nostra realtà, e questo va bene, abbiamo bisogno sicuramente di una spinta anche in questa direzione, di pensare ad un Alto Adige finalmente pacificato e altro. E rispetto a quello che si diceva pochissimi minuti fa, però di questo Alto Adige manca questa realtà di cui abbiamo parlato adesso, che è la nuova realtà degli immigrati, è un nuovo incontro, scontro fra culture, di cui forse, ecco, nell'ultimo sguardo Vassalli avrebbe potuto dirlo, che questo Sud Tirolo è cambiato in 30 anni e quella sua multiculturalità è diventata ancora più ricca, con tutto il positivo e il negativo, le contraddizioni e la ricchezza che questo porta, evidentemente, e che ci costringe in un certo senso a pensare a che cosa significa autonomia e che cosa significa essere autonomisti. E nel dibattito attuale, faccio una piccola chiusa, di attualità politica, mi pare che ci sia una questione che manca e che non viene trattata, e che è il tema dell'autonomia territoriale, cioè dare significato a questa definizione autonomia territoriale. Che cosa vuol dire? Visto che insomma nell'accordo di Parigi si parla degli abitanti di questa provincia, non solo degli abitanti di Guatedesca e Valdivia, quindi già quella concezione prima diciamo, della nostra Magna Carta c'era questa idea della territorialità dell'autonomia. Che cosa significa? Cominciamo a dargli un senso a questa idea del territorio comune e a coniugarlo, visto che adesso si prende in mano la questione della riforma degli statuti. Chiusa parentesi. Credo tocchi adesso all'anno. Io non capisco, non è un libro di storia. Esatto. Sbaglia chi lo considera un libro di storia, è un ipercolo di facile e agile lettura che inserisce sempre, naturalmente, non Israele, perché fosse stato sempre quest'uomo. Lui lì ha peccato, sembra così, e adesso fa un altro libro e dice: ecco, adesso dico la verità tutta, no? E lo fa in modo non per tutti, non per me, non per te, lo fa per un italiano, diciamo, meglio, che viene in Albania anche in vacanza, che lì conosce lo Strudel, le montagne, e dice: ah, ma guarda un po'. E così, in un modo molto molto molto leggero, si trova una, così, una storia raccontata così, secondo un piccolo film. Ma nulla di più, ma non penso che lui Battaglia fosse così vanitoso di fare un libro di storia. No. È già come è scritto così leggero, così agile, non ci sono neanche le note. Sì. No, dice, beh, lo scrive la provincia del suo opuscolo, scrive, con questo è il massimo di nota che fa. Ma io lo vedo un romanzino, ben scritto, l'ho letto così con facilità, dico, guarda che carino, carino appunto, ecco. No, non niente, non, di più non è, per cui non possiamo caricarlo di un ruolo che non ha, che non voleva avere. E poi io sono convinto veramente che un vecchio signore dice: adesso lascio ai miei posti, ai miei figli, un libro per capire meglio, perché forse il primo irrita, non si capisce bene. Adesso la seconda parte, adesso chi vuole sa che adesso è tutto cambiato. Questo è non di più. Una brevissima annotazione a quello che dicevano, è evidente che non è un libro di storia, e come dicevo all'inizio, ha bisogno però di un lettore avveduto. Questo sì, perché è capitato anche con il romanzo della Melandri, chi ha letto il romanzo ha detto: ah, adesso ho capito la storia dell'Alto Adige. Convinta, e la Melandri si è preparata, cioè si è documentata. Per cui ecco, è l'importanza, e mi rifaccio un po' a quello che diceva Antonio Lampis prima, l'importanza che il mercato offra la possibilità a lettori avveduti di potersi muovere con facilità rispetto alle fonti, rispetto all'offerta dei libri, all'offerta editoriale, con l'attenzione, che merita un romanzo, che resta un romanzo, su questo non c'è dubbio, aver ragione. Allora, sì, io vorrei, ripeto, vedere più spesso, e magari collocati dai librai in modo meno, come dire, nascosto nell'angolino, i libri di Giunti, che evocava il direttore Lampis, i libri di Alfabeta, i libri dell'editore Keller di Rovereto, i libri di altri editori, i libri di Rezia, tanto per insomma, non stiamo vendendo di foglio e così via, non stiamo vedendo tipi diversi di Nutella, e quindi una certa signora francese non troverà terreno polemico in questa stanza, ma vorrei vederli un po' di più, e vorrei, per quanto la distribuzione sia spesso pionieristica ma molto generosa, purtroppo di questi libri ne vedo pochi. Tempo fa, presso la libreria Feltrinelli di Largo Argentina a Roma, uno dei numerosi librerie punti Feltrinelli della capitale, un ignaro giovanotto con la tacchetta, con la plastichetta FF, mi ha detto: ah, ma i libri di dell'autore che lei cerca sono esauriti in tutte le nostre librerie. Non voglio fare un misterioso, inutile fare, però io ho detto: ma mi scusi, ma che cosa sta dicendo? Pensavo di essere un piccolo Altram, e invece è così. Quindi certo che c'è, e io non ne conosco pochi, e faccio ammenda, una saggistica e non solo, un bouquet di pubblicazioni di giunti e di alcuni molto coraggiosi editori cosiddetti locali. Però con buona pace di altri giornali altrettanto importanti, quest'ultimo libro di Vassalli è stato recensito in un'intera pagina sul primo quotidiano giornalista italiano. I libri di Keller sono stati ricordati in un taglio basso, in un boxone, in un'area bassa della pagina, un numero di qualche settimana fa del supplemento culturale dello stesso quotidiano. Leggo poco di queste cose sugli altri grandi quotidiani italiani, e non credo che i responsabili dei settori di importanti quotidiani desidino attenzione e stima verso questi libri. Ogni tanto sul domenicale del sole 24 ore trovo qualcosa. Oppure preferiamo che i turisti benedetti, benvenuti, eccetera, arrivino qui, vadano in qualche libreria e comprino 5 libri sulle erbe officinali, cosa preziosissima. Oppure la storia dei contenitori di legno del burro, altro tema stimolantissimo, ma forse un po'. Cosa dite? Ne approfitterei un attimo per fare anche il punto e dire che abbiamo visto quello che avete detto finora può riferirsi probabilmente a un mondo più commerciale, ma le biblioteche hanno il compito di documentare, lo facciamo molto volentieri, e facciamo anche una documentazione che va oltre quelli che sono i gusti intercettati da quelle che possono essere le mode. Abbiamo qui un piccolo così saggio di quelli che sono i libri, dei nomi coinvolti sia nella prima che nella seconda così edizione del Sangue Solo e del Confine. La biblioteca, ecco, offre delle opportunità a tutti di leggere libri che commercialmente non sono particolarmente attraenti, sono dei saggi di storia, l'abbiamo detto, i saggi di storia vengono così messi da una parte perché non hanno un grande smercio, non fanno colpo, a meno che non abbiano un apparato iconografico particolarmente attraente, e qui potremmo aprire tutto uno squarcio. Però la biblioteca esiste anche per questo, proprio per andare a scoprire e a documentarsi. Forse anche il merito di Vassalli è quello di insinuare un po' una curiosità, ma di permettere poi anche alla persona meno avvezza a frequentare certi temi e approfondire gli argomenti che invece hanno un'importanza e una caratura diversa anche nella saggistica. Vi ringrazio, credo che siamo arrivati alla fine.